Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È l'aprile del 1859. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento, una nuova puntata speciale perché la guerra è ad un passo. Ancora da Torino la corrispondenza di Paolo Piacenza. Paolo, buongiorno. Buongiorno Simone, le ultime notizie raccontano che il generale austriaco Giulai e le sue truppe sono penetrati in territorio piemontese e sono arrivati fino a una trentina di chilometri da Torino, ma sono stati bloccati da un atto che sembra nascondere la mano del conte di Cavour. I soldati e i contadini hanno aperto le chiuse delle risaie della Sesia, impantanando i soldati nemici e i loro carri. Da Vienna è dunque arrivato l'ordine di tornare indietro e di assestare le difese sulla linea del Mincio. Gli analisti militari che abbiamo consultato qua nella capitale sabauda, comunque, e ve la diamo naturalmente come un'opinione di parte piemontese, sostengono che questa sorta di dietro fronte austriaco è stato un grave errore tattico, perché ha consentito all'esercito dei Savoia e a quello di Napoleone III di ricongiungere le forze. Paolo, a tutto questo come si è arrivati? Allora, come vi abbiamo già raccontato, il trattato firmato tra Torino e Parigi prevede un intervento francese solo in caso di aggressione austriaca. I piemontesi hanno fatto di tutto per provocarla sotto l'abile regia del primo ministro Cavour. Considerate che sono almeno 20.000 i volontari arrivati da tutte le parti d'Italia, di cui una parte è guidata da Garibaldi, che non è certo tra i personaggi più amati a Vienna. I preparativi militari sono stati intensi e persino ostentati. Il disegno di Cavour ha rischiato di fallire a causa di un tentativo di mediazione della regina Vittoria d'Inghilterra, che avrebbe voluto organizzare una conferenza di pace. Napoleone ammiccava questa ipotesi. Poi però gli austriaci hanno posto delle condizioni oggettivamente irricevibili, che al congresso non partecipassero stati italiani e che non si affrontasse il tema di una qualsiasi modificazione territoriale della penisola. Quindi c'è stato l'ultimatum a Vittorio Emanuele II, un segnale chiaro per Cavour che la trappola tesa all'imperatore Francesco Giuseppe era perfettamente riuscita. Per quanto sei riuscito a sapere, quali erano le richieste austriache al re Savoia? Beh, di disarmare e congedare i volontari, e la risposta è arrivata direttamente dal Parlamento subalpino, che ha concesso al re poteri dittatoriali. Il 29 di questo mese gli austriaci sono entrati in Piemonte come risposta. Vittorio Emanuele ha rifiutato i poteri e ha deciso di unirsi alle truppe. Ora le redini del regno sono nelle mani, oltre che di Cavour, di un commissario, Carlo Boncompagni. Se non ci sono altre domande, da Torino è tutto. Grazie Paolo Piacenza. Abbiamo un'ultima notizia prima di chiudere che ci arriva ora dall'Egitto. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del canale di Suez, un progetto pensato dall'ex diplomatico francese Ferdinand de Lesseps, che ha ottenuto la concessione per la gestione del canale stesso. Gli scavi dovrebbero durare, secondo i progetti di Lesseps, almeno 10 anni. Ed è tutto anche per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Scriveteci a gazzettino@radio24.it oppure sulla nostra pagina Facebook. Visitate il blog, scaricate il nostro foglio quotidiano. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.